Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Sono le 21 e 2 minuti e 38 secondi in questo istante. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento serale. Questa sera io al microfono, Roberta Giordano torna presto, ma invece c'è sempre invece Cristian Goldoni alla naturalmente in assistenza, come sempre, a questo programma. C'è Roberta Frisani in regia. Insomma, tutto procede in realtà come quasi di consueto, e come di consueto la prima parte di questo programma fa il punto con i fatti del giorno. Allora direi partiamo subito dai titoli. L'FBI aveva segnalato all'Olanda i nomi di due degli attentatori di Bruxelles. L'Olanda aveva passato le informazioni al Belgio, ma Bruxelles smentisce la notizia. Quasi 1600 i migranti intercettati nel canale di Sicilia nella sola giornata di oggi. Riparte dunque l'emergenza immigrazione nel canale. Concluso senza problemi il dirottamento dell'aereo Egyptair atterrato a Cipro. Ci sono ancora però molti misteri. E ancora il calcio, questa sera amichevole blindata tra Germania e Italia. Sono 800 i poliziotti schierati all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. E visto che di calcio abbiamo parlato, accennato, vi segnalo che al 18esimo del primo tempo Germania e Italia 0-0. In questo momento stanno aggiustando, stanno aiutando un paio di giocatori, ovviamente un tedesco e un italiano, che si sono incocciati in uno scontro di gioco del tutto regolare per conquistare il pallone. Quindi 18esimo e fermo in questo istante il gioco, ma riparte ora con la Germania in tenuta completa bianca classica che avanza. Ma dicevamo, il terrorismo in primo piano, dunque altre novità emergono dalle indagini sugli attentati di Bruxelles. Una settimana prima degli attentati l'FBI aveva trasmesso alla polizia olandese informazioni sui precedenti criminali ed estremisti di due degli attentatori suicidi. L'Olanda si sarebbe poi messa in contatto con il Belgio. Praticamente il Belgio era stato avvertito da tutti. Ora anche Olanda e FBI chiariscono che ben prima delle esplosioni del 22 marzo Bruxelles aveva ricevuto informazioni sui futuri kamikaze. Sei giorni prima degli attentati l'FBI infatti aveva condiviso i precedenti di Ibrahim e Khalid El Bakrawi, i due fratelli futuri attentatori, con l'Olanda, e poi il 17 marzo il contatto era stato diretto tra la polizia olandese e quella belga. È stato personalmente il ministro olandese della giustizia Aard van der Stoyer a riferirlo davanti al Parlamento, quando ormai gli errori investigativi del Belgio sembrano aumentare sempre di più col passare dei giorni. E né gli inquirenti di Bruxelles né quelli di Parigi hanno ancora mandato nulla dei loro atti in Italia, dove pur si indaga sui passaggi di almeno due membri della cellula franco-belga. A Bari in queste ore si indaga sull'esistenza di un'eventuale rete di supporto logistico, gente che avrebbe aiutato o ospitato negli spostamenti verso la Grecia anche l'ex super ricercato Abselman Salah. E le verifiche si concentrano su 5-6 persone, ci riferiscono fonti investigative, persone già note per aver favorito l'immigrazione clandestina o il procacciamento di documenti falsi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la polizia giudiziaria federale belga dice di non aver ricevuto alcuna informazione sui fratelli Al Bakrawi da parte dell'FBI il 16 marzo e anche il giorno dopo, in occasione di una visita di lavoro da parte di un membro della polizia olandese. Non è stata data alcuna comunicazione su informazioni date dagli Stati Uniti alla polizia olandese. Così il direttore generale di questo corpo di polizia, il PGF, Claude Fontaine, in risposta alle dichiarazioni in senso opposto fatte dal ministro della giustizia olandese. Insomma, intorno a questo caso, una settimana dopo l'attentato, c'è anche una sensazione abbastanza esplicita in cui servizi di varie parti d'Europa e del mondo rimettono nella responsabilità delle autorità del Belgio alcuni buchi nelle indagini, nella prevenzione soprattutto. Ma intanto sul fronte italiano è in campagna che soprattutto si conducono le indagini sui documenti falsi usati anche da aspiranti jihadisti. Venerdì la nuova udienza dell'algerino fermato nel Salernitano, ma sono una decina i casi sospetti su cui indaga ora l'antiterrorismo di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli. L'ha intervistato Raffaella Calandra. La contraffazione documentale è una risalente specialità campana. La contraffazione documentale e quindi il possesso di documenti contraffatti è sicuramente un cosiddetto reato spia. I procedimenti che si aprono ogni anno per possesso o per la fabbricazione di documenti contraffatti sono diverse centinaia. Quelli da voi messi da parte per un maggiore approfondimento sarebbero una decina, giusto? Qualche decina di casi. E adesso invece una notizia che viene battuta qualche momento fa dalle agenzie, ci porta lontani in Afghanistan. Un F-16 dell'aviazione militare americana si è schiantato al suolo al momento del decollo nella base afghana di Bagram, con il pilota che è riuscito a catapultarsi fuori prima dell'impatto con il suolo. Fonti locali hanno indicato che le cause degli incidenti sono ancora da chiarire. Altra situazione che riguarda un aereo del tutto differente: oggi un dirottamento di un aereo della Egyptair decollato da Alessandria d'Egitto, ma appunto con un epilogo che l'ha portato lontano nel Mediterraneo orientale. In any case, it's not something which has to do with terrorism. Dubbi sul movente, ma di sicuro non si è trattato di terrorismo. Lo ufficializza in conferenza stampa il presidente cipriota Nikos Anastasiades dopo le ore di tensione vissute in mattinata all'aeroporto di Larnaca, dove un A320 dell'Egyptair è stato costretto ad atterrare sotto la minaccia di un presunto dirottatore poi arresosi. L'uomo è stato identificato come Said al-Din Mustafa, egiziano. Il volo era decollato da Alessandria, diretto al Cairo, quando l'uomo, mostrando di avere una cintura esplosiva, poi rivelatasi finta, ha intimato al pilota di atterrare a Cipro. Qui subito è stata fatta scendere la maggior parte dei passeggeri, ad eccezione di 4, tra cui un cittadino italiano e l'equipaggio rimasto a bordo. Poi, poco a poco, anche gli altri sono stati rilasciati fino alla resa dell'uomo alla polizia. È apparso come uno squilibrato, un idiota, non un terrorista, come lo ha definito un funzionario egiziano. Said al-Din Mustafa ora è sotto interrogatorio, risulta avere precedenti per truffa e contraffazioni. Non è un terrorista ma uno spiantato, rivelano i parenti. Mistero sul movente. Secondo le fonti, prima avrebbe chiesto di poter parlare con la moglie, residente a Cipro, poi la liberazione di prigionieri politici in Egitto, quindi di incontrare un rappresentante dell'Unione Europea. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque questo per l'esito tutto sommato positivo appunto del dirottamento a Cipro. Nel frattempo 23esimo, i campioni del mondo tedeschi sono avanti con gol di Kroos al 23esimo, dunque contro l'Italia ovviamente, nello stadio di Monaco di Baviera. Torneremo in diretta ad aggiornarci con il nostro Giovanni Capuano verso la fine di questo primo tempo per un bilancio appunto parziale di questa amichevole di lusso. Intanto invece noi torniamo nello stretto, nel canale di Sicilia, non si ferma il flusso di migranti dal Nord Africa. Infatti nel canale sono state raccolte, pensate, 1569 persone solamente oggi. Erano a bordo di gommoni alla deriva tra le 20 e le 30 miglia a nord della Libia. Altro tema ancora: Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, sono intervenuti in una conferenza stampa che è stata organizzata in Senato per tenere alta l'attenzione sulla morte del giovane ricercatore. Giulio non lavorava per i servizi segreti e non era andato in guerra, era un ricercatore e faceva il suo lavoro con passione. Chiedono verità Paola e Claudio Regeni, i genitori del 28enne friulano sequestrato e ucciso al Cairo con modalità che fanno pensare ad un omicidio commesso da apparati dei servizi. Il suo non è un caso isolato, il suo viso era irriconoscibile, ha raccontato la madre parlando delle torture inflitte al giovane. Su quel viso ho anche visto il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. Il 5 aprile gli investigatori egiziani saranno a Roma. Da loro si attendono tutti quei documenti che finora sono stati chiesti invano dai nostri inquirenti. Se non ci saranno novità vere, ci aspettiamo una risposta forte da parte del governo, dicono i genitori di Giulio, secondo i quali è ormai chiaro che è stato soltanto un depistaggio, il tentativo di attribuire la morte del figlio alla banda di criminali comuni poi uccisi dalla polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora facciamo invece il punto di giornata sulla lunga vicenda dei Marò. Domani all'Aia un'udienza che potrebbe essere importante. Sentiamo. Si alleggeriscono i toni e probabilmente si troverà una soluzione. L'Italia è ottimista sul rientro del fuciliere di Marina Salvatore Girone, convinta che ci siano i presupposti giuridici e umanitari affinché il tribunale arbitrale possa considerare positivamente la questione, lo dice l'ambasciatore Francesco Azzarello, agente del governo italiano davanti al tribunale arbitrale internazionale dell'AIA alla vigilia dell'udienza proprio su Girone. Il collegio di difesa italiana in riunione permanente all'AIA per preparare al meglio gli interventi. Stessa squadra che lo scorso agosto difese le posizioni del nostro paese davanti al Tribunale sul diritto del mare di Amburgo. Non si entrerà ancora nel merito dell'arbitrato chiesto da Roma per dirimere la controversia sull'incidente della Lexi, ma solo sulle misure cautelari. È l'India però a ritenere che la vicenda dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, non sia più una questione bilaterale e sostiene di aver sempre desiderato avere con l'Italia relazioni forti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora cambiamo argomento, parliamo di dichiarazione dei redditi, secondo anno per il 730 online. Ci saranno più dati e saranno coinvolte più persone. Ai 20 milioni di pensionati e lavoratori dipendenti che compilano il 730 si aggiungono infatti i 10 milioni del modello unico. Per la prima volta verranno indicate le spese sanitarie. L'Agenzia delle Entrate ha già raccolto oltre 500 milioni di informazioni, pari a 14,5 miliardi di euro, esclusi farmaci da banco privi della prescrizione medica. Tra le novità inserite nei modelli precompilati, online dal 15 aprile, ci sono le spese universitarie, quelle funebri e i dati sulla previdenza complementare. Come l'anno scorso, i cittadini potranno accettare il 730 così com'è oppure integrarlo e inviarlo al fisco tra il 2 maggio e il 7 luglio. Per i modelli unico la scadenza è invece il 30 settembre. È comunque possibile continuare a presentare la dichiarazione dei redditi in forma cartacea al datore di lavoro, al CAF o al professionista. In questi casi sarà l'intermediario a rispondere di possibili problemi. Quest'anno si potrà accedere al modello precompilato anche tramite lo SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ecco che abbiamo fatto le 21:15 minuti. Intanto Germania e Italia sempre 1-0, siamo al 29esimo del primo tempo e la Germania avanza pericolosamente in questa fase e manca un clamoroso gol. Davvero sembrava fatto il 2-0 per la Germania, invece appunto 1-0. Dunque io direi adesso di sentire insieme come vanno le cose sulle strade italiane, poi torniamo a parlare dell'attualità e ci colleghiamo con Bruxelles per fare il punto di questa settimana che sicuramente ha scosso e sconvolto il Belgio, ma che crea anche enorme preoccupazione per la sicurezza a livello continentale e mondiale. A tra poco. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ancora buonasera da Gigi Donelli, da Cristian Goldoni, da Roberta Frisani in regia. Le principali notizie di oggi ci riportano all'attualità, dunque, del terrorismo internazionale. L'FBI aveva segnalato all'Olanda i nomi di due degli attentatori di Bruxelles. L'Olanda aveva passato le informazioni al Belgio, ma Bruxelles invece smentisce la notizia. Riprende invece massiccio i movimenti dei migranti nel canale di Sicilia. Pensate, nella sola giornata di oggi 1600 quelli intercettati appunto nel canale. Si è invece concluso senza problemi il dirottamento dell'aereo Egyptair atterrato a Cipro. Restano però ancora molti i misteri. E infine questa sera un'amichevole blindata tra Germania ed Italia a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena. 800 poliziotti schierati. Quando siamo al 31esimo del primo tempo, la Germania conduce per 1-0. Bruxelles dunque, Bruxelles in molti misteri, incertezze, accuse anche da parte dei servizi di sicurezza europea, che in realtà in queste ore stanno dando anche un po' un quadro, come dire, la sensazione forte è che tutte le responsabilità ruotino proprio intorno ai servizi del Belgio, cosa che Potrebbe anche essere la cosa strana, però, per chi magari segue questi eventi anche purtroppo in altre occasioni, è che i precedenti si assomigliano, e questo mi riferisco a Parigi, ma anche guardando molto più lontano alla Spagna, a Londra, insomma, le informazioni del dopo spesso si mischiano alle accuse. Ma tant'è, noi ci colleghiamo con Bruxelles, con Maura Bertanzon. Buonasera Maura intanto. Buonasera a voi. Allora Mauro, partirei proprio dall'aeroporto. Oggi è stata giornata di sopralluogo per appunto arrivare a rispondere a una delle tante domande aperte da questo disastroso duplice attacco terroristico nell'aeroporto. Si sa quando riaprirà lo scalo di Bruxelles? Non si sa quando riaprirà, però si sa che domani di sicuro sarà ancora chiuso. Ecco, oggi c'è stato un test con 800 dipendenti dello scalo coinvolti per capire se si poteva riattivare una procedura del check-in, quindi proprio ai banchi dell'accettazione. Sembra che però uno dei nostri abbia portato alla fine alla decisione di far rimanere chiuso lo scalo, anche se ha proprio la questione delle misure di sicurezza. Quindi domani non si vola né in entrata né in uscita su Bruxelles con la compagnia di bandiera, la Brussels Airlines, che ha comunque confermato che anche giovedì si appoggerà sugli aeroporti di Liegi ad Anversa, su cui sta dirottando tutti i voli che erano stati prenotati per queste giornate qua. Ecco, giornate che sono giornate ovviamente di Pasqua, giornate di una festa che, come da noi il Belgio celebra in grande stile. Allora, come si sono organizzati Charleroi, Liegi, Anversa? Sono stati in grado, come dire, di gestire il flusso normale di una grande città e di una sede istituzionale europea che comunque aveva pianificato delle vacanze? Si riesce a gestire, di sicuro c'è anche molta più calca, però con anche tutto un sistema di bus navetta, diciamo, i passeggeri riescono comunque a raggiungere Bruxelles. Ricordiamo che comunque Charleroi è a neanche un'ora di auto da Bruxelles, lo stesso più o meno per Liegi e Anversa, parliamo di 30-45 minuti, per cui sicuramente hanno avuto un incremento dei voli, del traffico a cui non sono abituati, però riescono a far fronte alla cosa in maniera più che concreta. Ecco, la città invece, perché appunto da una parte è una metropoli europea, dall'altra è anche una meta turistica. Evidentemente gli attacchi hanno cambiato le cose, ma insomma che aria si respira a Bruxelles? È ancora un'area parecchio guardinga, diciamo. I mezzi pubblici stessi, almeno oggi ho preso proprio il metro, non c'era decisamente molta gente in giro. Il metro stesso sta circolando, sono ancora chiuse delle fermate e proprio poco fa la società dei trasporti pubblici ha confermato che rimarrà invariata la situazione anche per domani. Avevano annunciato che avrebbero riaperto tutto e invece rimarranno aperte solo 39 stazioni su 69, ecco, compresa ovviamente quella di Malbec, attraverso cui si transita molto lentamente. Ci sono delle transenne con dei teli scuri al di là dei quali si vedono le luci con gli operai che si muovono per rimettersi a posto, quindi sicuramente la situazione sta tornando alla normalità, ci si riesce a muovere in città, però ecco, lo shock si percepisce ancora. E non potrebbe essere diversamente. Allora io chiedo alla nostra Maura Bestranzoni di rimanere un momento con noi. Sentiamo un'intervista che ci riporta in Italia, in campagna, Fausto Zuccarelli, procuratore aggiunto, l'ha intervistato per Storiace Raffaella Calandra, e ci spiega come un tassello di questa crisi europea si svolga anche in campagna, dove, come lui stesso spiega, c'è una vera e propria centrale della contraffazione. Sentiamo il servizio. Indagini hanno dimostrato che i campani, particolarmente i napoletani, sono particolarmente abili sia nella produzione sia nella commercializzazione dei documenti contraffatti. La contraffazione documentale è sicuramente un cosiddetto reato spia. Insomma, chi ha bisogno di documenti falsi va nel napoletano per procurarseli? È sicuramente una zona dove si può acquisire un prodotto di miglior fattura. È come recarsi nel negozio di una Griff. I napoletani, per la contraffazione in genere, basta anche pensare alla contraffazione monetaria, sono classificati come il famoso Napoli Group, che è conosciuto e presente a livello internazionale. Sono stati arrestati persone di provenienza extracomunitaria che erano in possesso di documenti contraffatti e che utilizzavano per recarsi in paesi stranieri, in particolare nel Regno Unito. Si parla di una decina di persone sotto la vostra lente. Per la Procura della Repubblica di Napoli i procedimenti che si aprono ogni anno per possesso o per la fabbricazione di documenti contraffatti sono diverse centinaia. Quelli da voi messi da parte per un maggiore approfondimento sarebbero una decina, giusto? Qualche decina di casi. Informazioni dunque falsificate, a cominciare dai documenti, e questo è solo uno degli aspetti delle problematiche con cui fa i conti il Belgio in questi giorni in particolare, ma l'Europa nel suo complesso. Con Mauro Bertanzona ancora una battuta. Allora, tra commissione parlamentare, banca date, condivisione di informazioni, problemi linguistici, la sensazione che questo paese si stia scuotendo dalle molte accuse che sta ricevendo di fatto dall'Europa intera? Stanno sicuramente cercando di dare risposte concrete ed efficaci, quello che si sono persi un po' per strada nei mesi precedenti. È un paese che dovrebbe essere abituato di fatto al bilinguismo, però di certo non agevola il fatto di avere due lingue ufficiali, come non agevola le cose il fatto di avere sei parlamenti, mi pare che tanti siano i parlamenti di Bruxelles, appunto non agevola il fatto, come dicevi tu prima, una commissione terrorismo che era stata insediata già da più di 4 mesi e che di fatto non c'era ancora riunita, non aveva ancora iniziato i lavori, quindi anche il fatto che oggi stesso abbiano dato una risposta di questo tipo, proponendo delle misure con una banca dati coordinata, il che vuol dire accessibile finalmente a tutte le diverse forze di polizia, solo a Bruxelles ci sono diversi corpi di polizia che spesso abbiamo visto magari non si parlano tra loro, che abbiano esteso le perquisizioni a 24 ore su 24, prima non si poteva perquisire un'abitazione tra le 9 di sera e le 5 di mattina, e che abbiano anche allargato il metodo di indagini, soprattutto per quanto riguarda il traffico d'armi. Ecco, diciamo che stanno cercando di dare anche di fronte al mondo, al resto d'Europa, una risposta il più possibile concreta a quella che è l'emergenza del terrorismo in questi giorni. Grazie a Mauro Bertanzon, un Belgio che somiglia di fatto all'Europa stessa, e noi all'Europa torniamo con quella che è la nostra programmazione consueta. Due volte alla settimana vi raccontiamo l'Europa dall'interno, dagli europarlamentari, e questa sera vi presentiamo attraverso naturalmente il consueto racconto di Silvia Bernardi, YouZone, Renata Briano. YouZone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Renata. Cognome: Briano. Età: 52. Nata: Genova. Eletta in? Nel collegio Nord-Ovest, Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta. Con quanti voti? 46.940. Ogni singolo voto è importante. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Socialisti e Democratici. Segni particolari? Poco trucco e scarpe basse. Quante lingue parla? Parlo il francese, me la cavo in inglese, me la cavitto in spagnolo e cerco di parlare bene in italiano. Competenze europee in 10 parole. Ambiente, sviluppo sostenibile, pesca e diritti. Benvenuta nella YouZone di Radio 24. Dall'Unione Europea 250 milioni di euro per un programma di distribuzione di frutta e latte gratuiti nelle scuole. Investimento nella sana alimentazione. Ma da dove verranno i prodotti distribuiti? La priorità sarà data ai prodotti freschi e locali, nonché quelli biologici. Sono il meglio per i nostri bimbi europei. L'Europa però non detta azioni precise, perché ogni singolo Stato disporrà le misure migliori a seconda dei territori. E in Italia, per quanto riguarda frutta e verdura e latticini, non siamo secondi a nessuno. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui porti, tentativo di unire nord e sud. Beh, lo scopo di questo regolamento è sicuramente superare la conflittualità esistente tra i paesi europei su un tema così importante, per la prima volta fra l'altro. Non penso si debba parlare di nord o sud, di est o d'ovest, ma solamente di Unione Europea, e con questo provvedimento ci siamo riusciti. L'Unione Europea diventa protagonista solo su temi precisi e ristretti. Tutto il resto dove rimane? E questo me lo chiedo anch'io a volte, perché purtroppo a livello mediatico vengono ripresi solo alcuni provvedimenti europei, principalmente quelli che possono innescare più polemiche. Nuove quote di pesca per il tonno rosso. Grandi armatori contro piccoli produttori? No, noi siamo per una pesca sostenibile, che significa sostenibilità ambientale ma anche sociale, perché nella pesca lavorano tantissimi pescatori e quindi tantissime imprese, tantissime famiglie. E con l'introduzione delle quote di pesca per il tonno rosso, lo stato di salute della specie è considerevolmente migliorato. Quindi adesso le quote, che prima erano distribuite solo a pochi, devono trovare una distribuzione più equa nel futuro. Se non avesse fatto politica? Beh, mi sarebbe piaciuto realizzare documentari naturalistici. E un giorno invece nel futuro spero di poter assecondare di più la mia passione per la cucina. Il suo piatto preferito? La focaccia al formaggio di Recco. L'ultimo libro letto? Angelicamente anarchico, di Don Andrea Gallo, un genovese come me, un mito, e lo consiglio vivamente a tutti. Il suo motto? Più Europa. Un voto all'Europa da 1 a 10. Mi spiace, ma devo dare un'insufficienza, un 5. L'Europa così com'è non va. La risposta però non può essere ognuno per sé, perché saremo tutti più deboli. Serve una reale e forte Unione Europea, che amo chiamare Stati Uniti d'Europa, che rimane per me il sogno per cui sono qui a lavorare. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E questa era Renata Abriano, intervistato come sempre da Silvia Bernardi. Trovate tutto sul nostro sito, come trovate anche il nostro sondaggio perché l'Europa è diventata così impopolare. Andate a cliccare, domande dirette, secche e un dibattito che svilupperemo nel corso del mese di aprile per capire davvero a che punto siamo, come ci siamo arrivati, magari come cambiare le cose. E adesso collegamento invece con Giovanni Capuano per gli ultimi momenti del primo tempo di Germania-Italia. Giovanni. Eccoci qui, sì, siamo nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo Monaco di Baviera. L'Italia deve cambiare qualcosa perché è sotto per 1-0. Il gol lo ha realizzato al 23esimo Kroos, che ha approfittato di una respinta debole di Bonucci e con un destro dal limite dell'area di rigore ha battuto Buffon. Nazionale che fin lì non era andata malissimo, aveva iniziato anche con una certa personalità, ma che poi per 10 minuti e un quarto d'ora si è persa e ha regalato ai tedeschi tante altre occasioni, tedeschi che proprio in questo momento raddoppiano. Siamo negli ultimi secondi del primo tempo, c'è il raddoppio della Germania, 2-0, il tocco decisivo di Goetze, ma forse c'è anche la deviazione di un difensore degli azzurri. Dunque Italia sotto con un doppio svantaggio. Dicevamo Italia che dopo il gol dell'1-0 segnato da Kroos si era un po' persa e praticamente non ha mai tirato in porta, non una buona partita fin qui, non come quella di giovedì contro la Spagna, che invece ci aveva riempito di illusioni. Ora la Germania è avanti 2-0 e siamo negli ultimi istanti del primo tempo. Rete regolare, forse un'autorete di Darmiane, non il tocco di Goetze. A te. Grazie Giovanni Capuano. Dunque 2-0 in questo finale, staremo a vedere nel secondo tempo. È tutto, noi naturalmente ci risentiamo tra pochi minuti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Cari amici, ancora un saluto da Gigi Donelli, benvenuti dunque in questa terza parte di Effetto Notte. Abbiamo bisogno di prendere un po' di ossigeno, ve lo dico e penso che siate d'accordo, insomma sono giornate complicate, le notizie, le hard news cosiddette sono tante, a volte anche drammatiche, e allora per alcuni minuti abbiamo deciso di condividere con un ospite che ci ha raggiunto in studio un bellissimo progetto che ci porta proprio nelle ore notturne come quelle, diciamo, in cui andiamo in onda a esplorare, a scoprire le nostre città. Allora subito il benvenuto negli studi di Radio 24 a Sergei Nikitin, che è storico urbano, attivista della bicicletta e non solo. Sergei, buonasera e benvenuto. Ciao Italia, ciao Milano. Dunque Sergei, l'avrete intuito non tanto dal suo italiano che è impeccabile, ma dal nome, appunto, è russo. Allora Sergei Nikitin, ho detto subito storico urbano, il progetto di Velonotte di cui abbiamo sentito il jingle in una prima battuta, di cosa si tratta? È un format che era nato 10 anni fa e sta raccontando, è una narrativa in bici, un grand tour notturno che racconta le storie delle grandi città del mondo, da Londra e Istanbul fino a Mosca, Roma e Kazan. Cioè racconta nel senso che... attraverso la, anche attraverso ovviamente la radio, perché okay. Un giro di qualche centinaia o migliaia di persone che viene accompagnato da racconto, dalla musica preparata e da speaker solenni che vengono con noi a commentare gli aspetti di architettura, di botanica, di ecologia, di musica che era nata lì. Scoprire una città dunque in bicicletta su una due ruote di notte rigorosamente, perché di notte? In compagnia, questa è una cosa molto importante, in compagnia di persone che sono anche interessati alla stessa cosa come te. Ok. E vogliono seguire questi diversissimi aspetti, perché Velonotte è un luogo di incontro, nonostante che è un luogo che si muove. Un luogo in movimento di notte, ovviamente, anche perché la città, appunto, come dire, città come Milano, come Mosca, come Londra, diciamo che non sono necessariamente bike friendly, lo possono diventare di notte. Sì, in realtà era nato anche per questo, ma era nato anche dall'idea che di notte ci sono sempre meno luce e certe cose si può raccontare, anche le cose che non esistono più, per esempio i monumenti, i giardini antichi, per ci sono le ombre, sì, ci sono le ombre, anche ci sono i spiriti, ci sono e la parola è qui per la radio, abbiamo appunto questa condivisione, la parola diventa veramente magica e onnipotente perché sta parlando proprio con la tua immaginazione. Si pedala, poi ogni tanto ci si ferma, è giusto, si condividono appunto dei racconti, delle storie, è inutile anticiparle, si riparte, si prosegue, magari cercando l'alba? Sì, sì, normalmente incontriamo l'alba in un posto bello, su Tamigi, su fiume Volga e comunque... Pensate sì. Che spettacolo, l'alba sul Volga e perché no al Parco Sempione? Possiamo e anticipare? Anche, sì, il Parco Sempione, sì. Quindi, Parco Sempione, una tappa prossima, tra appunto le prossime tappe, è quella di Milano. Allora, Sergei, è giusto? 7 maggio l'appuntamento, stiamo parlando... Sì, stiamo parlando di 7 maggio. La che è un sabato, lo dico per gli ascoltatori, così. Nel programma della Triennale di Milano stiamo preparando questo evento che racconta la storia, la stagione d'oro di Europa. A Milano, dunque il periodo del dopoguerra, il boom, il periodo del miracolo, del boom, il periodo che ha favorito la crescita di tantissime cose, ma soprattutto questa città che praticamente era ricreata con questa forza, con questo entusiasmo, che comunque è una cosa da riprendere dalla generazione dei nostri nonni e bisnonni. Sergei Nikitin, perché uno storico russo viene a costruire assieme a un gruppo di ciclisti appassionati il racconto storico di una città come Milano? Direi che è una storia d'amore assai lontana, che parte dal momento che ho iniziato ad avere interesse in lingua italiana e a Mosca, alla fine degli anni Ottanta, esce la rivista Domus, inizio a leggerla in russo, 2 o 3 numeri hanno pubblicato soltanto, con testo italiano a fronte e mi sono innamorato di quello che in realtà non riuscivo a capire, che era proprio questo proto postmodernismo milanese che qui nasce con la Torre Velasca, con queste strane costruzioni di gruppo BBPR, questi architetti milanesi, e da qui nasce proprio questa domanda: cos'è questa città? Cos'è questa città che secondo questa città questo è bello, è diverso, molto diverso. E dunque questa energia, che è anche una energia di rifiuto in un certo senso, porta alla fine di scoprire questa città e ormai sono 20 anni che frequento, è una città dove ho tantissimi amici e mi sono imparato tante cose in questa città. E soprattutto è interessante proprio perché ispira mezzo mondo Milano, ma certe volte non riesce a respirare se stesso. Per questo noi in un certo senso La strana anima di Milano, che è un classico dell'interrogativo. Siamo una bella città? Non lo siamo. Insomma, queste sono cose che accompagnano i milanesi dalla nascita. Sergei Nikitin, Milano dunque una delle prossime tappe, ma torniamo al 7-7-2007, che se non sbaglio è stato il vostro debutto. Sì. Dove è stato e in che modo? Era Mosca in quel momento, quando ancora la bicicletta si prendeva in giro. Ecco, Mosca non è veramente una città bike-friendly. Era magari un Rastafari che andava pian piano sotto la pioggia senza fare attenzione a quello che succedeva. E allora la nostra idea era che facciamo questa rivoluzione di ciclistica non attraverso critical mass, ma cerchiamo di coinvolgere intellettuali che in realtà scriveranno di questo, faranno dei post, faranno degli articoli. E così le prime velonotti che abbiamo prodotto a Mosca erano, a noi sembravano piccolissime, cioè adesso sembrano piccolissime, venivano 100 persone, però venivano subito anche 3-4 telecamere nazionali a guardare cosa succede. Perché questa strana cosa che veniva sì, nella notte. E noi prendevamo sin dall'inizio anche dei soggetti che ci sembravano più importanti, ma anche molto negati, come le grandi zone periferiche, industriali. Insomma, non una Mosca facile, non la Piazza Rossa. No, assolutamente. È proprio è un'altra ragione, perché in realtà io penso che Mosca e Milano è vale veramente un gemellaggio, perché abbiamo tantissima storia industriale, tutte le due città che hanno avuto uno sviluppo enorme industriale, e che abbiamo in un certo senso anche diversi challenge nuovi. Certo, sfide che ci anche le comuni. Sfide proprio territoriali. E poi man mano comunque questo è diventato un movimento vero e proprio. Un movimento che in alcuni momenti ha raccolto fino a 10.000 persone a Mosca. Sì, sì, e a dire il vero era proprio Velonotte Majakovskij, dedicata al nostro grande poeta futurista Majakovskij. Era una velonotte che in realtà era strutturata non come un percorso di posti, di luoghi di Majakovskij, ma i luoghi che Majakovskij non ha mai visitato. Però forse li piacerebbe visitare, perché non era costruita ancora questa Mosca, grande Mosca, dove abbiamo portato il nostro grande poeta, a spasso. I luoghi perduti di un grande poeta, dunque Mosca, il racconto notturno, 10.000 persone, 20.000 ruote. Sotto immaginate che era una pioggia drammatica che durava 5 ore e la gente non riusciva a pedalare perché praticamente tutto era impregnato di acqua e scendevano le scarpe scendevano dalle pedale. Ecco, il carattere russo qui si vede. Non so se in Italia saremmo stati altrettanto tenaci, ma 7 maggio Milano, 21 maggio Kazan, una città che, come dire, è un mito e nello stesso tempo è un po' ai margini del grande turismo. Perché Kazan? Kazan è una città che si ricrea, che si rinasce. E per questo è interessantissimo, è un luogo che sta cercando di raccontare se stesso, è una città che sta cercando di raccontare la sua identità molto interessante, molto complessa, dove c'è la storia russa che inizia con Ivan il Terribile che prende Kazan, e c'è anche ovviamente la storia tatara, quella che inizia molto molto molto prima. E c'è un patrimonio gigante, per esempio addirittura che quest'anno abbiamo deciso di dedicare la velonotte a Kazan, alla storia di aviazione, perché maggiori costruttori degli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo. Quindi Tupolev, quindi sì, a cominciare da Tupolev. Pitlikov, sì, Mil, anche quelli che costruivano elicotteri brillanti, comunque stavano a Kazan. E è anche una storia molto sempre complicata, sempre complessa, perché in mezzo alcuni di loro in quel momento lì erano prigionieri di Gulag, perché così era il sistema operativo. E dunque noi stiamo cercando di proporre una narrativa che poi, infatti noi pubblichiamo sempre un reader di libri da leggere, anche per Milano ci sarà un elenco che la gente poi andrà, speriamo, a leggere, sarà così ispirata a leggerlo dopo l'evento. Sergei Nikitin, appuntamento dunque per il 7 maggio, ma prima sul web, ricordiamolo, velonotte.com, sì, velonoci.com o .ru, insomma potete scegliere, no, persino .com in ogni caso. Grazie a Sergei Nikitin e naturalmente, come dire, l'augurio è mille di queste pedalate e grazie, le Gigi. Seguiremo con interesse. Grazie. A presto. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. L'FBI aveva segnalato all'Olanda i nomi di due degli attentatori di Bruxelles, l'Olanda aveva passato l'informazione al Belgio, ma Bruxelles smentisce questo punto, smentisce la notizia. Riprendono massicci i passaggi lungo il canale di Sicilia, quasi 1600 immigranti intercettati nella sola giornata di oggi. Si conclude senza problemi il dirottamento dell'aereo Egyptair atterrato a Cipro, restano però ancora molti dubbi, molti interrogativi su questa vicenda. E infine questa sera un'amichevole blindata, quella tra Germania e Italia, ci sono almeno 800 poliziotti schierati proprio in questi istanti, di fatto è iniziato il secondo tempo con un'Italia all'attacco anche perché perde per 2-0, dunque quando scatta in questo istante, scocca anzi il primo minuto del secondo tempo. E noi torniamo invece a parlare delle notizie, come dire, più dure anche di queste giornate. Sicuramente tra queste c'è il drammatico caso di Giulio Regeni. Oggi è stata la volta dei genitori parlare direttamente attraverso una conferenza stampa che si è svolta in Senato. Di questo sta parlando questa sera il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che dice: non è una cosa abituale che il capo di una procura italiana parta e vada in un altro paese, non stiamo attendendo i comodi delle autorità egiziane, ma l'attività della magistratura italiana che non si fa condizionare da elementi legati alla ragion di Stato. Così appunto Orlando poco fa a Ballarò. Per quanto riguarda l'ipotesi di richiamare l'ambasciatore, dice: bisogna capire se è utile sguarnire in questo momento una postazione come quella, ma non si può escludere nessun passo. E a proposito, come vi dicevo, insomma, di questa giornata, oggi è stata la giornata in cui ha parlato la madre di Regeni, Paola, e lo ha fatto toccando e colpendo anche con delle descrizioni davvero che stupiscono, da un lato per la fermezza della sua voce e del suo racconto, ma che inorridiscono anche per il suo contenuto. Sentiamo un primo passaggio. Io penso che di quel viso, che era così bello, aperto, solare, ho un'immagine di lui, di un viso che era diventato piccolo, piccolo, piccolo, che io e Claudio abbiamo baciato e accarezzato. E non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Io su quel viso ho anche visto, oltre che il male, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché? Perché si è riversato su lui? E quindi su quel viso che era diventato piccolo, piccolo, colori che non vi dico, forse l'unica cosa che ho veramente ritrovato di lui, ma l'unica, è stata la punta del suo naso. Spaventoso, decisamente, e come penso possiate anche condividere, no, la riflessione sul fatto di questa voce chiara, ferma, argentina quasi, nel racconto di una madre che descrive appunto l'incontro drammatico col cadavere del figlio in condizioni in cui dice: riconosco solo la punta del suo naso. Questo evento, questo momento di incontro e appunto di rivendicazione di fatto di giustizia è stato organizzato dal senatore Manconi ed è proprio lui a parlare in un punto del suo intervento dell'ipotesi di richiamare l'ambasciatore in Egitto. Richiamo non vuol dire ritiro, vuol dire richiamare il nostro ambasciatore per consultazioni. è la formula che si adotta e che rappresenta un gesto, attenzione, non solo simbolico, particolarmente intenso, per far comprendere come il nostro Paese segue con la massima vigilanza e con la massima serietà questo caso, considerandolo elemento discriminante per le relazioni in corso e per quelle future tra l'Italia e l'Egitto. Manconi, dunque, su questo punto vi ho accennato a una sorta di risposta da parte del ministro Orlando, una risposta indiretta, ma insomma dice sostanzialmente bisogna capire se è utile sguarnire in questo momento una postazione, e si riferisce evidentemente alla postazione dell'ambasciata italiana in Egitto, ma conclude non si può escludere nessun passo. Paola Regeni, il tormento di una madre. Sentiamo un altro passaggio. Io mi penso, quando lui avrà cercato in tutti i modi di far capire chi è, magari avrà anche parlato in arabo, forse chissà anche peggiorando, che doveva essere una cosa a sua favore, avrà parlato in inglese, in italiano, in spagnolo, in tedesco, in friulano, in francese, perché riusciva a parlare tutte queste lingue, e forse chissà anche il dialetto egiziano. E niente è successo. E poi me lo vedo con quei suoi occhi, non più quegli occhi della fotografia felice, mi vedo i suoi occhi che dicono ma che cosa mi sta succedendo, ma non può essere una cosa che succeda a me, che cosa ho fatto. E poi prima che comincino a dargli i primi colpi o che cosa gli hanno fatto per prima, la cosa che mi fa ancora più male è capire lui che capisce che una porta non si aprirà più, ecco, e che aveva tutte le chiavi intellettuali e cognitive, storiche, culturali per capirle. E questa è la cosa che mi tormenta personalmente, di giorno, di notte, in qualsiasi momento. Un tormento fatto anche da questo racconto, dalla consapevolezza, come dice appunto la signora Paola Regeni, di avere a che fare con un ragazzo che lei definisce un ragazzo del futuro. Claudio, mio marito, vi ha spiegato in breve il percorso, così forse è chiaro che Giulio era andato là per fare ricerca, non era un giornalista, non era una spia e tutto quello che è saltato fuori, era un ragazzo appunto contemporaneo che studiava e mi verrebbe da dire del futuro, perché se non è stato capito nella sua così apertura al mondo, allora forse è un ragazzo del futuro, lui come tanti altri, sapete. Questi ragazzi del futuro, e dice infine tra i brani che abbiamo scelto Paola Regeni, quando mi chiedete perché so che non fosse appunto, non era una spia, lo so visceralmente. Chi ha figli in giro per il mondo, e ce ne sono tanti adesso, sviluppano una relazione a distanza fortissima. Bravo. Che secondo me a volte non hanno chi ha i figli che torna a casa ogni sera. Per chi così conosce la cultura aborigena, che sa come c'è questo contatto a distanza, io penso che tra noi e nostro figlio si sia sviluppato questo aspetto della relazione che hanno gli aborigeni, e quindi una cosa che diventa viscerale. Quindi la risposta è a livello viscerale, noi sapevamo che nostro figlio non era nei servizi segreti. Con tutto rispetto per chi fa questo lavoro, che è importante, no? Ecco perché lei dice sostanzialmente: sul suo viso ho visto tutto il male del mondo. L'avete sentita dalla sua voce, una donna che parla appunto senza cedere, senza in maniera anche stoica, francamente sta parlando di un'esperienza spaventosa per qualsiasi madre, per qualsiasi persona, ma tant'è, questo è il profilo che racconta del figlio. Siamo davvero alla conclusione, diamo 45 secondi al nostro Giovanni Capuano che ci aggiorna sul secondo tempo di Germania-Italia. Prego Giovanni. Sì, 45 secondi per raccontarti che siamo nel nono minuto, il risultato è ancora 2-0 per la Germania, il raddoppio, l'avevamo raccontato prima in diretta, è stato alla fine di Götze, che di testa è stato bravo tra Darmian e Florenzi a mettere dentro, ci aveva ingannato un tentativo disperato in tuffo di Darmian che sembrava aver toccato per ultimo il pallone, invece è stato Götze. Il primo gol di Kroos al 23esimo minuto, brutta Italia nel primo tempo, qualcosa meglio in questi primi 9 minuti della ripresa, soprattutto al terzo c'è stata una grande occasione per Montella Montolivo, messo in movimento da Insigne. Il sinistro del centrocampista azzurro non ha trovato però lo specchio della porta, però è un'Italia che sembra aver alzato un po' il ritmo dopo i primi 45 minuti assolutamente deludenti. Siamo nel decimo minuto, 2-0 per la Germania, fin qui nessun cambio e a Monaco di Baviera sta piovendo. Grazie a Giovanni Capuano è tutto, grazie da parte di Cristian Goldone oggi come sempre in assistenza, Roberta Frisani in regia, Gigi Donelli al microfono, domani torna Roberta Giordano, un saluto.